Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. In merito allo studio sulla persona di Gesù, quale divinità di Israele e dei cristiani, identificabile nella persona di Yahweh, è giunto il momento di trattare in tre trasmissioni la dottrina della Trinità. Senza ombra di dubbio, la dottrina della Trinità costituisce uno dei temi più difficili della fede cristiana e non credo che si possa giungere a darne una spiegazione razionale, esauriente, definitiva. Eppure, lo studio sulla persona di Gesù ha dissipato, per quanto mi riguarda, tanti dubbi e interrogativi, dandomi una chiarezza in merito al Dio Trino che non è a livello umano. Questa esperienza è alla portata di tutti coloro che hanno posto fede in Cristo, perché sta scritto nel Vangelo di Giovanni che nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre, è colui che lo ha fatto conoscere. Questa promessa, che è la base della mia fede e che è stata poco compresa e poco spiegata, vuole significare che nessuno ha visto la Trinità, ma Cristo Gesù, quale unico Dio, che è nel seno della Trinità, è quello che la rivela. E questo concorda con tutta la rivelazione del Nuovo Testamento. Gesù disse che nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Il Dio Trino, dunque, è sconosciuto all'uomo, ma Cristo Gesù è colui che lo rivela mediante lo Spirito Santo. Infatti, scrisse l'Apostolo Paolo ai credenti di Corinto le seguenti parole. Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi tra gli uomini infatti conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Ogni figlio di Dio dovrebbe tenere sempre presente questa verità, e cioè che Gesù Cristo è colui che rivela il Dio Trino mediante lo Spirito Santo. Non vi sia dunque nel cuore del credente nessun sentimento di orgoglio se comprende i misteri di Dio, ma una spontanea adorazione e gratitudine che si esprime con una vita dedicata al servizio di Gesù Cristo, quale Salvatore. Nonostante le derisioni e le opposizioni, da 2000 anni i cristiani testimoniano della loro fede in un Dio Trino, anche se sono coscienti che nessuna formula trinitaria è finale. Molti ritengono che la dottrina della Trinità sia stata costruita ad arte nella torre d'avorio dei teologi per complicare e oscurare la fede dei semplici credenti. Ma non è così. Come cristiano chiedo quindi a chi sia scettico su questa dottrina di essere paziente nel valutare le ragioni della fede che è stata tramandata una volta per sempre. Per comprendere le mie riflessioni dobbiamo fare ancora una volta un breve ripasso di ciò che abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo preso atto che la Scrittura attribuisce alla divinità di Israele dei cristiani tre nomi: Adonai, Elohim, Yahweh. Abbiamo pure constatato che questi tre nomi non sono sinonimi per indicare la stessa personalità divina. Perciò, mentre il termine Elohim Adonai sono nomi generici, il tetragramma che noi leggiamo Yahweh è il vero nome proprio della divinità di Israele e dei cristiani. Abbiamo inoltre osservato che Yahweh è il nome che il Creatore si è dato e che ha rivelato per la prima volta a Mosè. Perciò i santi dell'Antico Testamento non avevano una fede vaga in un Elohim, cioè in un Dio vago, ma in Yahweh. Le conclusioni alle quali siamo arrivati sono che gli israeliti, prima della diaspora, credevano in una divinità espressa al plurale e che l'espressione di questa pluralità fosse appunto in Yahweh. In seguito abbiamo considerato che Yahweh ha caratteristiche antropomorfiche e antropopatiche, che egli ha un corpo e che si è rivelato nell'angelo dell'Eterno quale immagine sostanziale di Yahweh, cioè la persona nella pluralità dell'Olim alla quale l'essere umano può accedere. Per questo motivo abbiamo concluso le nostre riflessioni in merito all'Antico Testamento dicendo che l'Antico Testamento è l'annuncio o l'Evangelo dell'opera e del messaggio di Yahweh. Nel leggere i Vangeli abbiamo inoltre notato che Giovanni il Battista identifica in Gesù Yahweh e che lo stesso Gesù afferma di essere la divinità dell'Antico Testamento in molti modi, uno dei quali con l'espressione «Io sono». Infine abbiamo dedicato 4 trasmissioni per far comprendere che se Gesù veniva chiamato Signore al tempo dei primi cristiani, essi non gli attribuivano un titolo onorifico, ma lo designavano quale divinità dell'Antico Testamento. Per prima cosa dobbiamo stabilire una verità che non può essere contraddetta. La divinità di Israele e dei cristiani è una. La scrittura a riguardo è molto precisa. Ascolta Israele, l'Eterno, il nostro Dio, l'Eterno è uno. Questa è la professione di fede ebraica valida ancora oggi. Ascoltiamo ora la lettura nella lettera ai Galati. Or il mediatore non è mediatore di una sola parte, ma Dio è uno. Paolo si appella all'antica proclamazione ebraica. Nessun giudeo avrebbe osato metterla in discussione, nemmeno per un momento. Ascoltiamo ora la lettura in Prima Corinzi, capitolo 8. E infatti, anche se vi sono i cosiddetti dei sia in cielo che in terra, come vi sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre dal quale sono tutte le cose e noi in Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose e noi esistiamo per mezzo di Lui. I pagani adoravano una pletora di dei e dee, ognuno dei quali aveva la sua propria sfera d'azione. Paolo asserisse che l'unico Dio dei cristiani sia responsabile di tutte queste cose. Ora ascoltiamo la lettura nella prima lettera a Timoteo. Vi è infatti un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo uomo. Ascoltiamo la lettura nella lettera a Giacomo. Tu credi che vi è un solo Dio, fai bene, anche i demoni credono e tremano. La fede dei demoni, notiamo, che è monoteista, quindi i politeisti sono peggio dei demoni. Ascoltiamo ora la lettura nel Vangelo di Giovanni al capitolo 17. Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. E infine ascoltiamo la lettura nella lettera agli Efesini al capitolo 4. Vi è un unico corpo e un unico spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Dunque vi è un solo Dio. I cristiani però, pur affermando che vi sia un solo Dio, contemporaneamente sostengono anche che nella Deità sussistano 3 persone, uguali nella natura, ma distinte come persone. Da dove hanno tratto questa conclusione? è forse un'opinione umana partorita nel corso dei secoli? No, i cristiani credono che le tre persone della Deità sussistano in uno stesso Dio, in conformità a quanto è affermato nelle Scritture. Poiché la fede cristiana è l'unica fede che ha le sue radici dalla fede ebraica, dobbiamo iniziare il nostro esame in merito alla Trinità considerando il testo ebraico. Possiamo cogliere la concezione di Trinità già nell'Antico Testamento facendo queste quattro riflessioni. In ebraico, per la parola uno, troviamo due termini. Attribuendogli un senso d'assoluto è Yakit. Questo termine non è mai usato per esprimere l'unità della divinità. Al contrario, per Dio è usata la parola Hekat, che esprime una unità composta. Troviamo questo termine nel libro del Deuteronomio, il capitolo 6. Ascolta, Israele, l'Eterno, il nostro Dio, l'Eterno è uno. Per comprendere la distinzione tra la parola Yakide ed Ekat, occorre pensare alla differenza che passa tra una mela e un grappolo d'uva. È evidente che ogni immagine umana per raffigurare Dio sia insufficiente e relativa. Dio non è composto. Gli esempi servono solo a chiarire la differenza che esiste tra una unicità assoluta e una collettiva o plurale. Un esempio di come venga applicata questa parola l'abbiamo nel matrimonio. Ecco che cosa leggiamo nel libro della Genesi. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. Gli sposi sono e rimangono due corpi separati, ma però sono una sola carne. Secondo esempio, il nome della divinità di Israele dei cristiani, Elohim e Adonai, riferite a Yahweh, sono al plurale, cioè di e signori. Quando un ebreo pregava Yahweh, si rivolgeva in questo modo: O Yahweh, mio Dì e mio Signori. Tale espressione aveva forse dell'irrazionale, ma rifletteva quello che un pio giudeo pensava. La terza riflessione è che i pronomi personali plurali usati da Yahweh in un contesto di monoteismo assoluto avevano dell'incredibile. Quando leggiamo nel libro della Genesi che Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, pensiamo all'imbarazzo in cui si dovevano trovare i copisti dovendo trascrivere un verbo al plurale riferentesi però a un Dio unico. Quarta e ultima riflessione, pensiamo al passaggio dal singolare al plurale che si rileva nei discorsi di Yahweh, cosa poi che abbiamo già visto nelle trasmissioni precedenti. Questo fatto è spiegabile solo se all'interno della divinità vi sia una pluralità di persone. Ascoltiamo un esempio nel libro del Levitico. Yahweh disse: I sacerdoti non faranno tonsure sul loro capo, non raderanno gli orli della loro barba e non faranno incisioni nella loro carne. Saranno santi al loro Dio e non profaneranno il nome del loro Dio, poiché offrono i sacrifici di Yahweh, fatti col fuoco, il pane del loro Dio. Perciò saranno santi. Non dimentichiamo che il testo ebraico della Torah ha almeno 3500 anni e che il plurale maestatis non esisteva ancora. Dunque, con queste premesse, è normale che Gesù e gli Apostoli si riferissero alla divinità come ad un unico Dio, ma pluripersonale. È stata proprio questa fede che ha portato i primi cristiani ad essere perseguitati. Essi credevano in tre persone divine, ma non erano politeisti, ma bensì monoteisti. Anche oggi molti si ritengono monoteisti anche se pregano, adorano e venerano altre persone. Ma essere monoteisti non è tanto avere una sola divinità, ma è soprattutto la proibizione di rivolgersi ed essere sottomessi ad altre divinità, cosa che i cristiani fecero a costo della loro vita. Che tutti noi, cari ascoltatori, possiamo avere la fede monoteista nella divinità pluripersonale degli ebrei e dei cristiani, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, la mia preghiera per voi è che possiate crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro, Gesù Cristo. Proprio perché questo dovrebbe costituire l'obiettivo di ogni credente, stiamo portando avanti da 30 trasmissioni riflessioni indirizzate specificatamente solo sulla persona di Gesù Cristo. Vi devo confidare che la prima persona ad essere edificata sono io, perché conoscere il mio Dio è sempre stato, fin da bambino, l'obiettivo della mia vita. E vi devo pure confidare che più conosco la persona di Cristo, più scopro la verità che in Lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Nella trasmissione precedente abbiamo iniziato a parlare della Trinità. Abbiamo detto che vi è un solo Dio, ma i cristiani, pur essendo monoteisti, contemporaneamente sostengono anche che nella Deità sussistono tre persone, uguali nella natura, ma distinte come persone. Da dove hanno tratto questa conclusione? I cristiani credono che le tre persone della Deità sussistono in uno stesso Dio, in conformità a quanto è affermato nelle Scritture. La parola di Dio afferma senza ombra di dubbio che vi è un solo Dio, ma presenta questo Dio con una pluripersonalità. Il termine rivela una molteplicità e una vita comunitaria nell'unica divinità. Come abbiamo considerato, due dei tre nomi della divinità di Israele dei cristiani, cioè Elohim e Adonai, sono al plurale. Seguendo le regole grammaticali, Elohim si dovrebbe tradurre letteralmente di e Adonai, signori. Questi nomi al plurale sono alquanto imbarazzanti per degli ebrei che hanno un monoteismo assoluto, ma per chi ha posto fede in Cristo quale Yahweh, nota in essi il germe dal quale scaturisce la conoscenza di una divinità espressa al plurale. Quando Gesù ordinò ai discepoli di predicare l'Evangelo in tutto il mondo, disse ai suoi discepoli: «Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». Da notare che Gesù invita i discepoli a battezzare nel nome e non nei nomi delle tre persone della divinità, attestando in tal modo che vi sia un solo Dio. E l'Apostolo Paolo, nel terminare le sue lettere, spesso scriveva: «La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con voi tutti. Amen». In questa benedizione apostolica, Paolo fa menzione di tutte e tre le persone della Trinità. La prova più evidente che le tre persone della Trinità costituiscono una sola deità è data dal fatto che tutti e tre vengono definite Dio. Infatti, nel libro dell'Apocalisse leggiamo: «E ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo. A Lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen». Il Padre di Gesù viene chiamato Dio, mentre nella lettera agli ebrei troviamo scritto: «Del Figlio invece dice: O Dio, il tuo trono è per i secoli dei secoli, lo scettro del tuo regno è scettro di giustizia». Il Figlio viene chiamato Dio. Infine, nel libro degli Atti, Pietro dice ad un uomo che aveva mentito: «Anania, perché ha Satana riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo del potere? Se questo restava invenduto, non rimaneva tuo? E il ricavato della vendita non era forse a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. In questo passo lo Spirito Santo viene chiamato Dio. Questi non sono solo versetti per dimostrare che la divinità dei cristiani è trina, ma è una verità che scaturisce da ogni pagina della parola di Dio. Occorre però fare attenzione. Il fatto che Dio sia trino non deve farci cadere in alcuni errori dottrinali nei quali hanno inciampato alcuni studiosi delle scritture. Ne citeremo solo tre. Vi è l'eresia del sabellianesimo, o trinità di funzioni, che ritiene vi siano tre aspetti o manifestazioni di una sola persona, come per esempio un uomo possa essere un figlio, un marito e un padre contemporaneamente. Ma dobbiamo tenere presente che le analogie riguardanti la divinità non esprimono compiutamente l'infinità del Dio dei cristiani e della sua triunità. Poi vi è l'eresia del triteismo, che ritiene vi siano tre dei nella Trinità, piuttosto che tre distinzioni personali di un unico Dio. In tal modo si cadrebbe nel politeismo. Infine vi è l'eresia dell'arianesimo, la quale insegna che il Figlio e lo Spirito Santo sono esseri inferiori rispetto al Padre, il quale ne avrebbe decretato l'esistenza per fare di loro i suoi agenti nei rapporti con il mondo e con l'uomo. Gli araldi più conosciuti di questa eresia sono i Testimoni di Geova, ma dopo le riflessioni che abbiamo fatto nel corso delle nostre trasmissioni e quelle che faremo ancora, per la loro eresia è preparata una tomba. Chi ha compreso che la divinità degli ebrei, cioè Yahweh, è la stessa divinità dei cristiani, ha un'arma che riesce fatale ovunque si volge. Non possiamo negare che nella scrittura vi siano affermazioni che sembrano negare la divinità di Gesù. Alcune asserzioni sembrano infatti opporsi al fatto che egli sia, come natura, uguale a Dio Padre. Come interpretare queste apparenti contraddizioni? Dove sono? Noi ne prenderemo in esame cinque, quelle più conosciute. La prima si trova nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14. Ascoltiamo. Avete udito che vi ho detto, io me ne vado e tornerò a voi. Se voi mi amaste, vi rallegrereste perché ho detto io vado al Padre, poiché il Padre è più grande di me. La seconda è nel Vangelo di Matteo al capitolo 24. Quanto poi a quel giorno e a quell'ora, nessuno li conosce, neppure gli angeli dei cieli, ma soltanto il Padre mio. La terza affermazione della scrittura, dove sembra che Gesù non abbia la stessa natura divina di Dio Padre, la troviamo nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 11. Voglio però che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo e il capo di Cristo è Dio. Infine, sempre nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 15, troviamo le altre due affermazioni di una presunta inferiorità di Cristo rispetto al Padre. Ascoltiamo. Ma ciascuno nel proprio ordine, Cristo la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza. E ancora? E quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora il Figlio sarà anch'egli sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Gesù, dunque, riconosce di avere il Padre più grande di lui, di non sapere il giorno del suo ritorno, che ha per capo Dio, che alla fine rimetterà ogni cosa nelle mani di Dio Padre, affinché Dio sia tutto in tutti.

che, parlando o scrivendo riguardo Dio, si specifichi a quale persona della Trinità ci si voglia riferire esattamente, perché Dio è sì uno, ekat, è vero, ma non è solo, cioè non è solo uno. Quando tutti scorgeranno nella parola Dio non più automaticamente la persona del Padre, ma la Trinità, la Deità, allora la mia esortazione avrà raggiunto il suo scopo. Termino qui per oggi le mie riflessioni, cari ascoltatori, e risentirci per terminare queste riflessioni in merito alla Trinità. Vi aspetto. Ciao. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, la mia preghiera per voi è che il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza, di rivelazione nella conoscenza di Lui. Proprio perché questo è il mio obiettivo nei vostri riguardi, da tempo ho concentrato in queste trasmissioni la mia attenzione solo sulla persona di Gesù Cristo. Nel corso delle nostre riflessioni siamo arrivati a considerare una delle dottrine più difficili del cristianesimo, e cioè la Trinità. Abbiamo preso atto nelle due trasmissioni precedenti che la divinità degli ebrei e dei cristiani è una, eppure in tutto l'Antico Testamento essa parla al plurale. Non solo, anche i due nomi che gli vengono attribuiti, Elohim e Adonai, sono al plurale. Questi particolari inducono a considerare un concetto di molteplicità all'interno dell'unica divinità, fino a scorgere, con la rivelazione del Nuovo Testamento, che in Dio sussistono tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Abbiamo visto nella trasmissione precedente che nella parola di Dio vi sono affermazioni che sembrano supporre che Gesù Cristo sia inferiore al Padre, ma simili espressioni devono essere comprese in relazione alla posizione di Cristo e alla sua attività, ma esse non riguardano mai la sua essenza divina. Infatti, i primi cristiani che erano giudei e che non avrebbero mai ammesso altra divinità, facente professione di fede in un'unica divinità, ritenevano Gesù quale Dio stesso. L'Apostolo Paolo, nella sua lettera ai Colossesi, è molto esplicito. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. E ancora? Guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e con vano inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Infine, nella lettera ai Filippesi, dà una testimonianza della divinità di Gesù, senza pari. Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio. Ipotizzando che Gesù non fosse Dio, i primi cristiani avrebbero preso il più grande abbaglio religioso della storia. Perciò il modo di esprimersi di Paolo deve essere un monito per noi. Che cosa predichiamo quando parliamo del Vangelo? Quando testimoniamo, che cosa comprendono alla fine i nostri ascoltatori? Quando Festo riassunse al re Agrippa e Berenice la ragione per la quale Paolo era in contrasto con i giudei, disse le seguenti parole. Ma avevano solamente dei punti di disaccordo sulla loro religione e intorno a un certo Gesù, morto, che Paolo diceva di essere vivente. Se i posteri potessero dire altrettanto di noi. È necessario rimarcare il fatto che Gesù possegga la stessa natura del Padre, che Egli è uguale al Padre quanto alla sua natura, inferiore al Padre in quanto alla sua umanità, che tutte e tre le persone della Trinità sono insieme coeterne e coeguali, perché, purtroppo, ho conosciuto dei credenti che non ritengono Cristo Gesù della sostanza del Padre. Eppure, sia Gesù che gli Apostoli non lasciano dubbi. Proprio perché Gesù possiede la stessa natura del Padre, egli ha più volte fatto affermazioni che sono assolutamente assurde se non comprese in questa particolare prospettiva. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni il seguente brano. Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. Fin da ora lo conoscete e l'avete visto». Filippo gli disse: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gesù gli disse: «Da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credetemi a motivo delle opere stesse». Come sempre, le affermazioni di Gesù devono essere comprese rettamente. Gesù parla del Padre come qualcuno diverso da lui, perciò Filippo gli chiede di vedere il Padre. Gesù, inaspettatamente, dichiara che chi ha visto lui ha visto il Padre. Come è possibile? Il Padre non è forse un'altra persona? Sì. Ma la risposta di Gesù di essere uguale al Padre era riferita alla sua natura e non alla sua persona. Gesù si identifica con il Padre, evidentemente intendendo per paterna la propria natura divina, che egli condivide con suo Padre. Quindi la natura del Cristo è paterna, in quanto divina, creatrice, esattamente paterna ed eterna, come quella del Padre suo. È in quest'ottica, cari ascoltatori, che deve essere compreso l'Antico Testamento. Diversamente, si arrivano a conclusioni non conforme alla rivelazione di Dio. Quando leggiamo l'Antico Testamento e troviamo dei riferimenti a Yahweh, la divinità degli ebrei, cioè a Gesù Cristo, che viene definito Padre, non dobbiamo ravvisare nell'espressione di Padre la prima persona della Trinità, ma che Gesù Cristo, come abbiamo appena detto, condivide con il Padre e lo Spirito Santo l'unica natura paterna che vi è in Dio. Ascoltiamo in proposito due brani nel profeta Isaia. «Poiché tu sei nostro Padre, anche se Abramo non ci conosceva e Israele ci ignora. Tu, o Yahweh, sei nostro Padre, nostro Redentore, da sempre è il tuo nome». E ancora? «Tuttavia, o Yahweh, tu sei nostro Padre. Noi siamo l'argilla e tu colui che ci formi. Noi tutti siamo opera delle tue mani». Non possiamo negare che noi siamo condizionati nella lettura dell'Antico Testamento dalla conoscenza che abbiamo di ciò che ci ha rivelato Gesù Cristo. Ma se riusciamo a pensare che gli ebrei dell'Antico Testamento non avevano la rivelazione della Trinità, che noi conosciamo il Padre solo tramite Gesù, è evidente che simili espressioni avevano un significato che andava oltre a quello che i profeti e i contemporanei comprendevano. Le relazioni che i cristiani chiamano trinitarie, relazioni divine, generazione, filiazione, spirazione attiva e passiva, riguardo all'Elohim, erano sconosciute fino alla rivelazione del Figlio fattosi uomo. L'Antico Testamento introduce e fa conoscere Yahweh quale rivelatore principale di Dio, anziché il Padre, come noi pensiamo, un po' troppo affrettatamente. Non deve mai essere dimenticato che ciò che ha scandalizzato i giudei era che Gesù non solo violasse il sabato, ma che si dichiarasse Dio. Ecco la testimonianza di Giovanni nel suo Evangelo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva queste cose di sabato. Ma Gesù rispose loro: «Il Padre mio opera fino ad ora, ed anch'io opero». Per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Allora Gesù rispose e disse loro: «Il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato». Possiamo comprendere lo stupore dei giudei, ma alla luce di quello che abbiamo studiato nell'Antico Testamento, essendo coscienti che esiste una pluralità personale nella Deità, poteva Gesù essere ritenuto colpevole di bestemmia? Se Gesù ha affermato di essere Yahvé, non era possibile che in questa pluralità nella Deità vi fosse un padre? Possiamo anche simpatizzare con la reazione dei giudei. Ma com'è possibile che ancora oggi alcuni non credano all'esistenza di una molteplicità in seno all'unica Deità del Dio di Israele? Più volte è stato detto che l'Antico Testamento contiene le grandi verità che verranno in seguito presentate da Gesù e gli Apostoli. In merito alla natura paterna di Gesù Cristo, il profeta Isaia aveva profetizzato che il Cristo sarebbe stato chiamato Padre. Ascoltiamo. «Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace». Questa identificazione del Cristo con il Padre la troviamo in una delle più belle promesse che Gesù fece in relazione alla preghiera, che noi leggiamo dal greco. «Qualsiasi cosa chiediate a me nel nome di me, io la farò». Infatti, la Bibbia Nuova Riveduta rende: «Se mi chiederete qualcosa nel mio nome, io la farò». Gesù ha sempre indirizzato i suoi discepoli a rivolgersi al Padre, ma in questa occasione invita i suoi discepoli a chiedere a Lui nel suo nome. Questo significa due cose: che Gesù è Dio, come il Padre, e che chiedere a Gesù equivale a chiedere al Padre. Anche riguardo ai grandi interrogativi dell'uomo, intento alla ricerca della strada giusta che conduca a Dio, della verità su Dio e della vita eterna, Gesù indica se stesso come il Padre. Ascoltiamo. Gesù rispose a Filippo: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». A molti sfugge il verbo «viene» in questa affermazione, ma se Gesù e il Padre fossero di natura diversa, egli non avrebbe usato il verbo «viene», ma «va». Andare a Lui quindi equivale ad andare al Padre. Proprio per questo i primi cristiani ritenevano Gesù essere Dio stesso. Leggiamo nella lettera ai Colossesi la seguente espressione: «Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui». Paolo considera Gesù Cristo l'agente nella creazione, l'immagine del Dio invisibile. In greco, la parola immagine deriva dal sostantivo eidos, il cui significato si riferisce alla forma visibile di tutto l'essere. Paolo sta asserendo che Gesù sia il corpo visibile del Dio invisibile. Quando nel libro dei Numeri, al capitolo 12, leggiamo che Mosè contempla la sembianza di Yahweh, dobbiamo intendere che Mosè vedesse l'essenza di Dio in forma visibile. Così si esprime Paolo nella lettera ai Colossesi. Guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e con vano inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Paolo sostiene che non solo Gesù è il corpo di Dio, ma che nella sua natura umana non corrotta abita tutta la pienezza della Deità. Gesù è dunque a tutti gli effetti uomo Dio. Ecco cosa leggiamo nella lettera ai Filippesi. Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio. Anche in questo brano, Paolo rimarca la divinità di Gesù. Il gerundio essendo in forma di Dio, è da intendersi in senso casuale e va letto Gesù Cristo, il quale, dato che era in forma di Dio. Per questo altre versioni rendono Gesù Cristo egli essendo per natura Dio. La traduzione può anche essere discutibile, ma il concetto concorda con il resto della scrittura. Così commenta uno studioso la parola forma. Se la parola forma, in greco morphē, è intesa in questo inno come un riferimento al possesso da parte di Gesù di quella qualità associata con la manifestazione esteriore di Yahweh nel Vecchio Testamento, allora si può senz'altro affermare che egli era di condizione divina. Nonostante l'autore, come tanti altri teologi, non abbiano associato Cristo a Yahweh, rimane comunque il fatto che la divinità di Gesù non può essere messa in discussione, se permettiamo alle scritture di apportare delle correzioni ai nostri presupposti umani. Alla luce di queste riflessioni, cari ascoltatori, quando parliamo di teofania, nell'Antico Testamento usiamo una definizione impropria. L'espressione più giusta è cristofania, se non yahwehfania. È vero che Gesù è Dio, ma il termine teofania non rende giustizia alla presenza di Cristo nell'Antico Testamento. Non mi rimane che salutarvi, cari ascoltatori, e darvi l'appuntamento alla prossima per parlarvi dello Spirito Santo. Ciao a tutti. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che il Dio della speranza vi riempia in ogni gioia e pace nel credere, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. È giunto il momento di dedicare una trasmissione proprio alla persona dello Spirito Santo e considerare la sua opera e la sua posizione nella Trinità. In una trasmissione precedente abbiamo notato che oltre a manifestare l'esistenza di una pluralità di persone nella divinità, l'Antico Testamento rivela la presenza dello spirito dell'Elohim e di Yahweh con quasi 400 citazioni. Gli studiosi di ebraico e di aramaico fanno notare che il termine spirito, ruah, è femminile. Questo particolare dovrebbe essere tenuto presente, perché nella nostra mente siamo condizionati dai termini maschili e femminili. Quando i cristiani affermano che in seno alla Trinità vi sia il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, hanno in mente tre persone di carattere maschile, anche se i cristiani credono che la loro divinità non abbia propriamente una sessualità umana. Ma se i cristiani pensano che in seno alla divinità vi sia una certa femminilità, ciò non solo è conforme a quello che sta scritto nella parola di Dio, ma anche ad un principio divino. Mi rendo conto che queste riflessioni potrebbero far sussultare qualcuno, ma non possiamo negare l'evidenza. Nella nostra mente la divinità è sempre espressa al maschile. Se osserviamo i quadri che rappresentano il Creatore o Dio il Padre, raffigurano sempre un essere maschile, mai femminile. Se il Padre fosse asessuato, non avesse apparenze maschili, perché non ritrarlo in una sembianza che non fosse né maschile e né femminile? O perché non ritrarlo al femminile? Il concetto che tutta la deità dei cristiani e degli ebrei sia solo maschile è stato ed è approvato tuttora coscientemente o incoscientemente. Abbiamo inoltre preso atto che nell'Antico Testamento si parla della persona dello spirito dell'Elohim e dello spirito di Yahweh. Come l'uomo è stato creato d'immagine di Dio, perché egli non è guidato esclusivamente da impulsi naturali come gli animali, ma è stato fornito di intelligenza, sensibilità, volontà, cioè è una persona morale, così la scrittura ci presenta lo spirito dell'Elohim non come una forza impersonale, invisibile energia, ma come una persona avente le stesse caratteristiche di Yahweh, la divinità degli ebrei e dei cristiani. Mediante la sua opera, i santi dell'Antico Testamento erano ripieni dello Spirito, mossi dallo Spirito, sollevati dallo Spirito, e a loro parlava. Questi aspetti sono la base e i primi elementi per poter comprendere e accettare in seguito la rivelazione che ne fa il Nuovo Testamento in relazione alla persona dello Spirito Santo. Nella parola di Dio, lo Spirito di Dio è una realtà fin dal secondo versetto della Scrittura. Ascoltiamo. La terra era informe e vuota e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Di conseguenza, nessun stupore se Gesù parla dello Spirito di Dio. Ciò che potrebbe sorprendere è che questo Spirito proceda sia dal Padre che dal Figlio, ma alla luce delle premesse fatte orora, questo aspetto dello Spirito Santo è in armonia con la rivelazione. Che lo Spirito Santo proceda da Gesù Cristo lo dice lui stesso al capitolo 16 di Giovanni. Ascoltiamo. Tuttavia, io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutte le cose che il Padre ha sono mie. Per questo ho detto che egli prenderà del mio e ve lo annunzierà. Gesù annunzia che avrebbe mandato un Consolatore, lo Spirito di verità, quello santo, che avrebbe detto solo ciò che apparteneva a lui. Questo particolare potrebbe essere un modo per distinguere lo Spirito che viene da Dio dagli altri spiriti maligni. Che lo Spirito Santo sia anche lo Spirito di Cristo è una verità che sarà ripresa da Paolo nelle sue lettere. Ascoltiamo. Ora, perché siete figli? Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei vostri cuori che grida Abba il Padre. E ancora? Se lo Spirito di Dio abita in voi, non siete più nella carne, ma nello Spirito. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a Lui. Come abbiamo detto, lo Spirito Santo non è solo di Gesù, ma appartiene anche a Dio Padre. Ascoltiamo ciò che Gesù disse. Ma quando verrà il Consolatore, che vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre mio, egli testimonierà di me. E ancora? Vi ho detto queste cose mentre ero con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Non solo, ma lo Spirito Santo viene anche definito lo Spirito della Trinità. Parlando dei misteri che Dio rivela a coloro che lo amano, Paolo scrive quanto segue nella lettera ai Corinzi. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi tra gli uomini infatti conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Ricordiamo che il termine Dio nel Nuovo Testamento il più delle volte è riferito non alla persona del Padre, ma alla divinità trina. Questo è comprensibile soprattutto se teniamo presente che il termine Dio è spesso l'equivalente del termine ebraico Elohim, che, come abbiamo considerato, è plurale, e cioè di. Dobbiamo riconoscere che vi è molta confusione in merito alla personalità, alle opere e alle manifestazioni dello Spirito Santo. Per molti, uno degli ostacoli maggiori è ritenere che lo Spirito Santo sia coeterno, coeguale, consustanziale con il Padre e il Figlio. E questo perché nel profondo del loro cuore pensano ad esso solo come una influenza, una potenza, una emanazione della natura divina. Ma in tutta la Scrittura scorgiamo la presenza dello Spirito Santo come persona e come Dio. Una sola affermazione di Gesù mette a tacere ogni dubbio in merito alla divinità dello Spirito Santo. Nel Vangelo di Matteo, e non solo, leggiamo che i farisei accusavano Gesù di cacciare i demoni per opera di Satana. E di rimando Gesù rispose loro: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico: ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà loro perdonata. E chiunque parla contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi parla contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato, né in questa età né in quella futura. Forse si è data poca importanza a quello che Gesù ha detto. Ma il peccato maggiore che una creatura fatta di immagini di Dio possa compiere nei confronti del suo creatore non è tanto nei confronti del Padre o del Figlio, ma dello Spirito. Ora, non è possibile compiere un peccato così grave con conseguenze eterne nei confronti di una forza impersonale, come non è possibile essere giudicati così severamente se la persona dello Spirito Santo non fosse Dio. Proprio perché lo Spirito Santo è una persona reale quanto Gesù Cristo, quando Anania mentì davanti agli apostoli, Pietro gli disse le seguenti parole: Anania, perché ha Satana riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo del potere? Se questo restava invenduto, non rimaneva tuo? E il ricavato della vendita non era forse a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. I cristiani hanno sempre creduto alla divinità e alla personalità dello Spirito Santo e sono concordi con il simbolo di Nicea, il quale afferma: crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà vita, procede dal Padre, è adorato e glorificato insieme al Padre e il Figlio, ha parlato per mezzo dei profeti. Proprio perché lo Spirito Santo è una persona e Dio stesso, un cristiano, quindi, non dovrà mai commettere alcun peccato contro lo Spirito Santo, come resistergli, rattristarlo, spegnerlo e mentirgli. Queste situazioni richiamano alla mente una relazione personale, anche se negativa, fra due personalità, una divina, cioè quello dello Spirito, e una umana. La grande responsabilità del cristiano sarà quella di essere sottomesso all'azione e alla signoria dello Spirito Santo, perché questa è la vita normale di ogni figlio di Dio. Il Vangelo di Giovanni lo dice espressamente. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo Spirito è Spirito. Non meravigliarti se ti ho detto, dovete nascere di nuovo. Lo Spirito soffia dove vuole e tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene né dove va. Così è per chiunque è nato dallo Spirito. Dunque, lo Spirito Santo soffia dove vuole, perciò non è un'energia o una forza obbligata da altri a spirare o soffiare dove altri decidono. In questo caso è detto chiaramente che è Lui a decidere dove andare e in che modo vuole e fa nascere addirittura chi vuole e quando vuole Lui. Non si può dire così di una forza. Al credente non resta che lodare Dio perché, mediante lo Spirito Santo, è stato fatto partecipe della natura divina e può dire con l'Apostolo Giovanni le seguenti parole. Nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Se è presa sul serio, questa dichiarazione è unica nel suo genere. La divinità ha reso l'uomo teomorfo, cioè simile a Dio, non solo nella creazione, ma anche mediante la rigenerazione, al punto che lo spirito che possiede viene definito lo spirito di Dio e di Cristo, che è l'equivalente dello spirito di Yahweh e dell'Elohim, non facendo nessuna distinzione tra essi. L'Apostolo Paolo scrive nella lettera ai Romani le seguenti parole. Se lo spirito di Dio abita in voi, non siete più nella carne ma nello spirito. Ma se uno non ha lo spirito di Cristo, non appartiene a lui. Tutto ciò si accorda pienamente con il messaggio dell'Antico Testamento. Abbiamo considerato che Yahweh sia una persona, che Yahweh ha uno spirito, che Dio ha uno spirito, che questo spirito è Dio. Perciò lo Spirito Santo è una persona della pluralità dell'unica Deità, uguale e distinta da Dio Padre e Dio Gesù Cristo. Nella nostra ricerca, cari ascoltatori, abbiamo preso atto che la divinità del popolo dell'Eterno è plurale. Gesù ha parlato di un Padre che è della stessa sua natura, di uno Spirito che procede sia dal Padre che da Lui e che è distinto sia dal Padre che da Lui. Vi è dunque un solo Dio, in tre persone uguali e distinte. O meglio ancora, vi sono tre persone uguali e distinte che sussistono in una sola Deità. A questo punto, cari ascoltatori, il cerchio si chiude. Alla luce del Nuovo Testamento sappiamo che l'Elohim dell'Antico Testamento è Trino e che Yahweh, cioè Gesù Cristo, era ed è la manifestazione corporea dell'Elohim, cioè del Dio Trino. Conclusioni che fanno riflettere, certo, ma anche se la nostra conoscenza di Dio è parziale, ciò nonostante rimane autentica, perché la sua autorivelazione, rivolta a delle persone che hanno la mente di Cristo, diventa comprensibile per mezzo dello Spirito Santo. Non mi rimane che salutarvi e darvi l'appuntamento per gli ultimi 4 studi, sempre più interessanti e importanti, nei quali considereremo la persona di Cristo quale rivelatore del Padre e il mezzo per accedere al Padre. Ciao a tutti!